Chiamate Mauro e Debora, con i loro consigli siamo tutti tranquilli. Mauro e Debora, oramai non possiamo più fare a meno di voi. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza. Hello and welcome to a very special episode of Happy Mum, Happy Baby, the podcast. Today we're recording from a nursery in Stockwell, London, where I've just finished an engagement with the Duchess of Cambridge. Hello. Thank you. Don't worry, I'm equally as nervous, so don't worry. Well, let's talk about today. Buongiorno, Debora, ma non c'era inglese stamattina? Non doveva esserci educazione fisica a quest'ora? Questa, devo dirti che è forse un po' una pratica commerciale scorretta, una concorrenza sleale, perché ci fanno concorrenza sui podcast ed è una concorrenza più che sleale, reale, oserei dire, regale. Ecco, esatto, perché quella che avete ascoltato rispondere alla prima interlocutrice era proprio lei, la duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Esatto, intervistata da Giovanna Fletcher, che è la curatrice, che è la nipote di Jessica. No, scherzo, no, naturalmente. Ma non magari lo è. Sì, ma non lo sappiamo. Sì. E questa signora, non so se sia esattamente una collega, gestisce appunto questo podcast indipendente Happy Mom, Happy Baby, e ha invitato Kate Middleton a raccontare la vita di mamma reale alle prese con i problemi di tutte le mamme del mondo. Sono tutte belle le mamme del mondo. Eh sì, e per lei, appunto, avendo tre figli addirittura, George, Charlotte e Louis, quindi ha potuto così spiegare le sue ansie, anche i suoi dubbi, i suoi tormenti, perché dice: ho avuto anche dei periodi difficili quando, sì, per occuparmi ovviamente dei figli piccoli, cosa che mi rendeva molto felice, ma d'altra parte dovevo trascurare gli impegni istituzionali e viceversa. Quindi, insomma, di solito succede il contrario, perché se una donna si occupa degli impegni di lavoro si sente in colpa appunto per non riuscire ad avere il tempo sufficiente per gestire i figli. Qua invece avviene un po' al contrario. No, lei ha detto proprio così: quando ero in maternità mi sentivo in colpa per non essere nella condizione di ottemperare agli obblighi della casa reale. Bene. E ai vari impegni. Oh, naturalmente noi lo segnaliamo così, al di là del fatto che il podcast sta diventando ormai uno strumento molto diffuso, molto apprezzato. Cioè, ci sono podcast anche di questa nostra trasmissione. Esatto, incredibile, ma dirsi. Non vogliamo paragonarci certo alla Casa Reale e alla Duchessa di Cambridge, però anche noi nel nostro piccolo, noi abbiamo Debora Rosciani, se loro hanno Kate Middleton. Happy Mauro and Happy Debbie. Potete trovare il tutto su radio24.it nella sezione 2 di Denari, appunto, del nostro programma. Tra l'altro vi segnaliamo che stiamo anche via via mandando in rete queste interviste che abbiamo realizzato a Consulenza 2020 o Consulenza 2020, come preferite chiamarla, con degli operatori molto importanti della finanza, che vanno un po' a individuare le tendenze di investimento, i problemi, i possibili cigni neri del 2020, insomma, da cosa guardarsi, su cosa puntare. Ne mettiamo in rete a disposizione una al giorno, tutto assolutamente gratis, per così da fare un po' di diffusione di cultura, in questo caso finanziaria. Io invece ho un altro tema da suggerire, magari può approfondirlo in un ulteriore podcast, per la signora Giovanna Fletcher. Sì. Potrebbe parlare per esempio del bonus nido 2020 italiano. Che cosa ne pensi? E magari, certo, la signora Middleton potrebbe anche fruirne, magari ne può anche parlare con la cognata amorevolmente, prendendo un tè in salotto. Possono così reciprocamente aiutarsi con queste informazioni. E dopo la battutona che non fa ridere nessuno. No, però effettivamente, al di là del fatto che la vedo difficile sia per la possibile richiesta e sia anche per così questa chiacchiera con la cognata, però vogliamo dire solo perché la seconda sta in Canada, non peraltro. Ovviamente. Vogliamo dire alla Duchessa di Cambridge, ma soprattutto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, esatto, che l'INPS ha testé diffuso le istruzioni per utilizzare il bonus nido 2020, che tra l'altro è stato anche finanziato con un po' più di soldi, un po' più di fondi. Sì. E quindi dovrebbe riuscire a soddisfare tutte le domande. Trovate le istruzioni, intanto, se volete andare sul sito del Sole 24 Ore, il collega Davide Colombo, ben noto anche che qui a Due di Denari ha diffuso un po' in sintesi le questioni. Ma domani avremo ospite un altro esperto di valore mondiale, cioè il collega Matteo Prioschi. L'ho già prenotato per domani mattina in apertura di trasmissione. Che ci spiegherà come fare per inviare la domanda, per chiedere questo bonus nido che da oggi appunto ha trovato le istruzioni dell'INPS. Peraltro con le nuove istruzioni ci sono anche quelle per la presentazione delle domande di rimborso delle rette di iscrizione agli asili e le spese sostenute per l'assistenza domestica di bimbi fino a 3 anni affetti da gravi patologie. Ma domani appunto vi daremo tutti i dettagli. Fra un po' avremo il nostro consueto meteo borsa. Per quello che riguarda invece il tema portante di questo lunedì 17, caro Mauro, che cosa abbiamo deciso di affrontare? Parliamo di conti correnti. Ne parliamo perché da più parti si segnalano dei rincari sui costi del conto corrente. Ora, noi sappiamo che teniamo noi italiani molti soldi sui conti correnti per tanti motivi, e però insomma gli istituti di credito aumentano le spese a nostro carico, così almeno segnalano diverse associazioni di consumatori e diversi rilevatori comparatori. Poi, tra l'altro, proprio in questo fine settimana l'Associazione Bancaria Italiana è tornata a segnalare l'esistenza del cosiddetto conto di base a zero spese, che è riservato ad alcune categorie che non hanno, ovviamente, hanno minori disponibilità e anche però minori necessità di utilizzo del conto corrente. Di tutto questo parliamo nella seconda parte della trasmissione, ma se volete in qualche modo segnalarci cose, chiederci, candidarvi per intervenire, allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp sui conti correnti vostri ma anche altrui, perché no? Volevo dirti che testè su WhatsApp mi ha scritto un messaggio Davide Colombo segnalandomi il pezzo che ha scritto questa mattina sulle circolari IMSS, ma noi lo abbiamo bruciato sul tema. Non ci ascolta il collega, dopo lo bacchetto. Tirata di orecchi per Davide Colombo e invece noi andiamo a aprire il nostro meteo borsa innanzitutto, perché è lunedì e come ogni lunedì vogliamo scoprire che tempo fa e che tempo farà questa settimana sui mercati finanziari. E allora, meteo borsa. Meteo borsa. Allora, che tempo fa? Piovono i bacilli del coronavirus su tutti noi, purtroppo. Non speriamo che qua non arrivi più di quanto non abbia già fatto la sua visita in Italia, ma il punto è che questa epidemia, di cui si continuano ad aggiornare le stime, con tutte le problematiche legate anche alla chiarezza di queste informazioni e comunicazioni che arrivano dal governo cinese, è un tema che sta ancora condizionando le borse. Ma a questo punto mi viene anche il punto interrogativo, perché stamattina l'Europa è ripartita bene, nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'avete sentito nei nostri giornali radio, abbia detto: noi non vediamo al momento la fine del tunnel, l'arrivo del picco, per cui muoviamoci con cautela. Le stime continuano ad essere appunto aggiornate dalla Cina, e dalla Cina stamattina è arrivata anche una nuova maxi operazione di sostegno all'economia della Banca Centrale Cinese. E allora, cosa ci dobbiamo aspettare? Quali sono i commenti, le considerazioni degli operatori finanziari? Buongiorno e bentrovato a Vladimir Biasia, partner fondatore di WB Advisor, Vladimir Biasia Advisors naturalmente. Buongiorno e bentrovate, grazie. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, anche Wall Street venerdì ha chiuso benino, il Nasdaq di nuovo sui suoi massimi, ma anche gli altri indici, pur con la frenata, continuano a muoversi su livelli storicamente assolutamente alti. E poi l'Europa stamattina di nuovo piuttosto bene. Quali sono le sfide della settimana con cui gli operatori finanziari dovranno confrontarsi, Biasia? Direi che l'appuntamento principale di questa settimana riguarda gli indici PMI, ovvero gli indici sul sentiment delle aziende sia appartenenti al settore manifatturiero che ai servizi europee e americane. È il primo sondaggio che viene effettuato dopo la diffusione della notizia sul coronavirus, e quindi è molto atteso questo sondaggio per capire un po' qual è, diciamo, il grado di fiducia che le aziende nutrono nonostante, diciamo, questa pandemia. Perché se osserviamo i mercati, come dicevate voi prima, c'è assoluto ottimismo, nel senso che i mercati continuano ad apprezzarsi e conseguentemente sono abbastanza impermeabili a qualsiasi notizia proveniente da questo evento, e quindi si cerca sul fronte dell'economia reale quali sono le risposte di sentiment da parte delle aziende per poter capire quale può essere il quadro di riferimento per i prossimi mesi. Cioè, sembra interessante, sembra diventare interessante anche la situazione della Gran Bretagna in uscita, per così dire, dall'Unione Europea, cioè la Brexit che insomma entra piano piano nel vivo, perché poi, come abbiamo ricordato più volte, per tutto quest'anno in realtà ci sarà una sorta di periodo di sospensione, si continua con le regole precedenti, però intanto c'è un rimpasto di governo, si sostituisce il ministro del tesoro, forse arriva un piano di stimolo fiscale, cioè arrivano incentivi in qualche modo per sostenere l'economia. Allora, come possiamo pensare che i mercati reagiranno a questo tipo di iniziative, Biasia? Ma se noi guardiamo un po' al comportamento del cambio, cioè il rapporto tra euro e sterlina, vediamo che i mercati apprezzano questa manovra del governo Johnson, si aspettano, diciamo, degli incentivi fiscali, quindi degli stimoli piuttosto concreti sul fronte dell'economia reale, che possono, diciamo, come dire, allontanare segnali di rallentamento della crescita anche in Inghilterra. Questo eviterebbe riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Inglese e sostanzialmente un ulteriore apprezzamento, come noi ci aspettiamo, della sterlina nei confronti dell'euro. Quindi segnali da questo punto di vista più rassicuranti rispetto a quanto non erano quelli raccolti, diciamo, tutto lo scorso anno, durante, diciamo, come dire, tutta la fase di accordi e di contrattualistica, diciamo, tra l'Unione Europea e il governo inglese. Ora le cose sembrano più delineate e probabilmente il mercato ne trarrà beneficio. L'Asia intanto stamattina a Tokyo ha chiuso con un calo dello 0,7%, abbiamo avuto il dato sul PIL del quarto trimestre, siamo ai minimi, al peggior dato da 5 anni a questa parte, c'è stata una contrazione dell'1,6%, per il resto, nel resto delle piazze asiatiche mi pare che il clima invece sia continuato ad essere positivo. Oggi devo ricordare anche che Wall Street sarà chiusa per il President Day. Piazza Affari sta di nuovo puntando su Nexi quest'oggi, più 4,23%, mercato che ormai è sempre più convinto dell'arrivo di un'operazione importante di consolidamento nel settore che possa vedere protagonista Nexi e l'altro grande colosso del settore SIA. Poi Pirelli più 2,70, ricordati più 1,61, abbiamo un rialzo di oltre un punto per Ferrari, per Ubibanca che oggi presenta il suo piano industriale, Fiat Chrysler, mentre in negativo Campari in ribasso di un punto, Leonardo Finmeccanica meno 0,8, STM meno 0,7, questi tre titoli sono probabilmente condizionati nella loro prestazione negativa proprio dalle notizie sulla diffusione del coronavirus. Qualche tema interessante su Piazza Affari? Abbiamo visto settimana scorsa, Biasia, le aste dei titoli di Stato manifestare un trend ancora una volta molto interessante da molti punti di vista, rendimenti sempre più in giù e per il titolo triennale, se non ricordo male, di nuovo in territorio negativo. Sì, e devo dire che in generale un po' perché le banche centrali ormai già da settembre si sono, diciamo, riposizionate in un atteggiamento estremamente stimolativo e accomodante, i rendimenti sul tratto lungo della curva sono nuovamente ritornati a scendere, anche quelli italiani, e noi ci aspettiamo nel corso di quest'anno un'ulteriore discesa del 10 anni italiano verso, abbiamo un target a 0,50 addirittura, e nutriamo, diciamo, una certa, come dire, pensiamo che questo sia un target raggiungibile, ancorché eventuali segnali di ulteriore rallentamento economico spingeranno le banche centrali ad essere ancor più, come dire, attive sul fronte degli stimoli monetari. Attendiamo proprio il dato PMI di questa settimana, quello europeo, per vedere se la Banca Centrale Europea reagirà, perché finora è rimasta piuttosto silente a fronte, diciamo, delle notizie provenienti dal coronavirus, e vogliamo capire se reagirà anche essa con altri stimoli per, come dire, sostenere l'economia. Quante cartucce ha da parte sua il sistema delle banche centrali? Perché anche questo è un altro tema. Se adesso devono fronteggiare anche il coronavirus, a questo punto il mercato continuerà a drogarsi all'infinito della convinzione, appunto, di questo interventismo continuo, Biasia, ma non comincerà a diventare prima o poi un problema? Ma questo è un bel tema su cui dibattere sotto tutti i profili accademici e non. È chiaro che si tratta di misure inedite per cui aprono riflessioni di ampia natura, ma la cosa più importante a mio avviso è che le banche centrali devono assolutamente, come dire, tenere alto il tenore della crescita o comunque sostenere la crescita, sostenere la liquidità, perché senza liquidità il mercato e il mondo perderebbe fiducia dalle piccole e grandi imprese e quindi troveremo in una situazione, ahimè, ancora più complessa rispetto a quella del 2008. Quindi ritengo che il loro ruolo, ancorché possiamo discutere all'infinito, sia quello di garantire, diciamo, un equilibrio nei mercati sotto il profilo della circolazione della liquidità e strumenti inediti come quelli che abbiamo conosciuto negli ultimi anni sembrano ancora adeguati per poter, diciamo, svolgere questo ruolo. Diversamente ritengo che con misure, diciamo, tradizionali, quelle che vedevamo nel passato, probabilmente avremo dei grossi problemi. Grazie a Vladimir Biasia, che è fondatore di WB Advisor, ci ha aiutato a decifrare il tempo che fa sui mercati finanziari, il tempo che farà sui mercati nel corso della settimana. E adesso, cara Deborah, credo sia il momento del giornale radio del risparmio. Esatto. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Questa facciata nasconde una vita. Intanto cominciano ad arrivare delle domande sul tema dei conti correnti. Volevo anche leggerti questo messaggio che ci arriva da Carla, poi parleremo del bonus facciate. Carla da Roma che ci scrive: ho aperto un conto corrente online in una grande banca italiana che mi permetterebbe di utilizzare anche un conto di deposito. Mettendoci dei fondi avrei ufficialmente due conti, sarebbe come un libretto di risparmio. Mi ha molto colpito questa domanda perché c'è ancora molta confusione su quello che è un dossier titoli, un rapporto con una banca che sia un rapporto all'insegna della gestione del risparmio e il libretto del risparmio, che è qualcosa di estremamente diverso, è lo strumento di risparmio più semplice, quello che le nonne aprono per i nipoti, e quindi è banalmente tenere quasi dei soldi sul conto corrente e poco altro. E quindi, Carla, non facciamo confusione, sono due cose molto diverse, però la ringraziamo per la domanda perché ci permette ancora una volta di così fare un po' di educazione finanziaria per quello che possiamo fare noi cialtroni, noi sì, due, ecco. Insomma, più che altro nel nostro piccolo, facendo il catalogo degli strumenti, perché effettivamente è vero, tante volte si rischia di perdersi davanti alle definizioni. Per questo però, perdonate se la sfacciataggine, però nel nostro libro, cioè Risparmiare è facile se sai come fare, di Deborah Rosciani e Mauro Meazza per i tipi del Sole 24 Ore, abbiamo anche previsto proprio una sorta di catalogo degli strumenti, delle categorie più importanti nei quali mettere i propri risparmi, dal conto corrente al libretto di risparmio e via via crescendo. Avevamo però scomodato Renato Zero perché sarà contento di sapere che usiamo la sua canzone per questo. No, ma secondo me Renato Zero è un artista veramente poliedrico e potrebbe anche cantare il fisco, per quello che ne so. Allora, perché l'avevamo promesso, l'avevamo annunciato in anteprima mondiale qui a Due di Denari proprio settimana scorsa. Mm-mm. Arriverà la circolare che spiega tutto sul bonus facciate, e allora la circolare è arrivata venerdì in serata, naturalmente come secondo le peggiori tradizioni della diffusione delle istruzioni, però già sul Sole 24 Ore sabato e poi sul sito e poi ovviamente qui a Radio 24 abbiamo parlato di questo bonus. Vi segnalo allora sul Sole 24 Ore di oggi un utile riepilogo. Se cercate le indicazioni anche sul sito del Sole 24 Ore, pure le potete trovare da quanto è stato pubblicato sabato. Vi do due questioni così che erano un po' sospese. Allora, vale l'agevolazione, questa maxi agevolazione di detrazione fiscale al 90% delle spese sostenute, vale per tutti i lati dello stabile, quindi tutto il perimetro esterno, non solo quello che affaccia sulla strada, per così dire. Poi, tra i lavori agevolabili si possono anche inserire la mera tinteggiatura, l'avete chiesto in molti, quindi mi sembrava giusto ricordarvelo, la pulitura della superficie, e questa agevolazione è valida anche se si interviene su balconi e eventuali fregi esterni. Vanno bene anche i lavori sulle grondaie, sui pluviali, i parapetti, insomma c'è stata una lettura abbastanza ampia, abbastanza generosa dell'Agenzia delle Entrate in questa circolare diffusa, la circolare la numero 2 e per gli appassionati come me delle questioni fiscali. Allora senti, io non ho famiglia, ma quasi quasi oggi faccio una telefonata all'assicuratore per capire se può già praticarmi praticamente lo sconto formato famiglia che è garantito da questa nuova RC auto familiare che dopo tutta una serie di tira e molla sembra essere entrata in vigore definitivamente, quantomeno il presupposto legislativo c'è. Dopodiché tra il dire e il fare in questi campi c'è sempre di mezzo non il mare praticamente di 18 pianeti e quindi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo secondo te? Allora, cosa mi potrebbe rispondere l'assicuratore oggi pomeriggio? Allora, senti, le questioni stanno così. L'RC auto familiare entra in vigore il 16 di febbraio. Quindi da ieri e quindi da oggi. Si era pensato di intervenire intanto che eravamo lì a convertire in legge il decreto legge mille proroghe. Cioè il decreto legge è in vigore ma non conteneva nulla a proposito di questa RC auto, si voleva inserire una norma proprio sull'RC auto familiare, in sostanza per rinviarla ancora un po' dal 16 di febbraio, mandarla più avanti, così come anche si pensava di mandare più avanti l'obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per i pagamenti delle spese, delle detrazioni. C'è la domanda dell'ascoltatore su questo tema, eh? Allora, vi possiamo dire che oggi ci sarà il voto di fiducia proprio sul decreto legge mille proroghe, quindi al primo ramo diventerà legge e poi sostanzialmente non cambierà più. La polizza RC auto, nessuna novità, spese tracciabili, nessuna novità, quindi si va avanti come se niente fosse accaduto. Esatto. E niente in effetti è dal punto di vista normativo accaduto, il che significa la polizza RC auto familiare in teoria oggi voi la potete chiedere. Poi magari però io farei. Se consideriamo che l'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, non è che sia proprio contenta di questa novità, avrebbe addirittura definito ingiusta la norma per gli assicurati, perché praticamente andrebbe a vantaggiare per esempio quelle famiglie dove ci sono più auto e dice magari il nucleo familiare dove ce n'è una sola e devono spendere un sacco di soldi per l'assicurazione, perché non pensare a immaginare ad una sorta di risparmio anche per nuclei familiari che sono realmente in difficoltà economica, quindi chi vai ad avvantaggiare? Per cui anche un po' paladina delle ingiustizie. E poi c'è anche l'IVAS che manca l'appello e che dovrebbe dire la sua sul meccanismo appunto attuativo di tutte queste novità. Il tutto però è, come dire, da verificare, e allora io lancerei, cara Deborah, se sei d'accordo, una specie di richiesta d'aiuto agli ascoltatori. Scriveteci, sì, anche con i mezzi abituali, quelli della posta elettronica, duedenari@radio24.it, per dirci: avete provato a chiedere l'RC auto familiare e cosa vi hanno risposto? Esatto. Perché è interessante capire se le agenzie, se già gli agenti sono in condizioni di soddisfare questo tipo di richieste. Anche perché non ci dimentichiamo che le compagnie, volendo, possono anche fare da sé. Non è escluso che dal punto di vista commerciale possano intraprendere delle iniziative a vantaggio dei propri clienti per magari trovarne anche dei nuovi, quindi le compagnie possono adottare delle soluzioni commerciali che sono assolutamente in linea con la normativa, senza aspettare appunto il puntello legislativo, come dicevamo. E allora si sono fatte le 11. Saranno contenti gli assicuratori che abbiamo dato questo oggi. Saranno questa indicazione. Di telefonate per dispetto. E oggi sarà una giornata intensa. Allora, siamo arrivati così gioiosamente alle 11:31, quasi a 32. Gradirei un rapidissimo aggiornamento sui mercati finanziari e poi andiamo a parlare di conti correnti. Deborah, le borse. Rosciani, Meazza portano la borsa alla piazza. Due di denari. La grana, non lo sai quanto mi manca, da quando mi son fatto un conto in banca. Tenete i conti nelle cassette di sicurezza, non in banca. Reale. Buongiorno. Io vorrei sapere, proprio in merito ai bonifici interbancari, perché vengono ancora considerati giorni lavorativi, essendo i bonifici assolutamente online, sia nella spedizione che nel ricevimento. Non riesco a capire perché vengono considerati giorni lavorativi e quindi un bonifico effettuato il venerdì praticamente arriva sul conto corrente del beneficiario martedì. quindi contate un po' voi quanti giorni sono. Grazie. Quanto riesce ad essere? Ma non c'è il bonifico istantaneo, oppure dipende dalle somme che devi bonificare, caro Mauro? Ma che ne so, io ho scomodato apposta per rispondere a questa e a molte altre domande una esperta mondiale della materia, come sempre. È veramente una delle nostre preferite, sì. Purtroppo la invitiamo poco, ma recupereremo in questo 2020, promesso. E allora, diamo il benvenuto all'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo, qui rappresentato da Anna Vizzari. Buongiorno. Buongiorno, sempre molto gentili, grazie. Abbiamo una risposta per l'ascoltatore che lamentava l'addebito appunto del bonifico. Allora, sicuramente ci sono ancora, confermo, i giorni lavorativi, però diciamo che rispetto al passato c'è un miglioramento, perché al massimo, da quello che noi vediamo, il tutto, la disponibilità delle somme arriva entro un giorno, massimo due giorni lavorativi. Detto questo, c'è anche la possibilità di un bonifico istantaneo che viene in realtà effettuato in 10 secondi, però è vero che non tutte le banche sono ancora pronte a questa innovazione, e soprattutto si tratta di un bonifico che costa di più rispetto a un normale bonifico SEPA. Accanto a questa precisazione contestuale c'è stato il WhatsApp di un ascoltatore che dice: il bonifico istantaneo si paga di più. E quindi vabbè, insomma, sono tutte voci che probabilmente o accettiamo così in silenzio, ma che magari non so se possiamo anche negoziare con la banca, ma il punto è che apriamo un 2020 che sembra già volersi caratterizzare per dei colpi di aumenti sulla gestione del conto corrente in senso generale. Abbiamo avuto negli ultimi giorni una rilevazione di SOS Tariffe che ha rilevato come i conti correnti, che anche gli online che in passato suggerivamo di aprire nel caso si volesse ovviamente risparmiare sul costo di tenuta conto, ma anche questi cominciano a risvegliare i loro ardori, e naturalmente le operazioni insomma a costo zero sono diventate introvabili e impossibili nella gestione del nostro rapporto con la banca. Cosa sta succedendo, Vizzari? Risulta anche a voi questa tendenza ed è motivata da che cosa? Allora sì, anche dalla nostra banca dati conti correnti risulta sicuramente un aumento del costo dei conti correnti, dobbiamo confermarlo. D'altra parte è una dinamica che è già iniziata nel 2018 e sta continuando, e purtroppo nel 2020 abbiamo già avuto delle informazioni, delle notizie negative da conti che tradizionalmente sono stati aperti in passato, più appunto perché gratuiti, online e totalmente gratuiti. Quindi in realtà il 2020 inizia male, e che cosa possiamo fare? Come al solito dobbiamo far giocare la concorrenza, perché la notizia buona è che comunque ci sono ancora sul mercato dei prodotti che sono effettivamente gratuiti, quindi conti online gratuiti. Quindi sicuramente, almeno per l'immediato diciamo presente, diciamo per i prossimi anni, possiamo aspettarci che ci siano ancora dei prodotti gratuiti, però a questo punto, come al solito, la fedeltà non paga, quindi cambiamo operatore se abbiamo ricevuto delle comunicazioni di aumento del costo dei conti correnti. Posso fare un po' l'avvocato del diavolo, certo. Però il tema gratuito, perché si dovrebbe avere il diritto di utilizzare dei servizi bancari a costo zero, Vizzari? Mi faccia un po' capire. Sì, diciamo che nel passato i conti online hanno utilizzato proprio la leva della gratuità per poter anche trovare del pubblico, no? Certo. Nel senso che in passato diciamo che i correntisti erano un po' titubanti anche nell'aprire dei rapporti che potevano essere gestiti unicamente attraverso le piattaforme, quindi senza il contatto fisico. Quindi diciamo che in passato la leva della gratuità è stata utilizzata per convincere il correntista ad aprire il rapporto. Adesso non è più così, però d'altra parte è anche vero che il cliente si aspetta che questi rapporti, che comunque non prevedono la possibilità di andare in agenzia a fare le operazioni, non prevedono un consulente che ti segue fisicamente, abbiano comunque un costo inferiore rispetto ai cosiddetti prodotti tradizionali. E in un certo senso diciamo che questa aspettativa ha delle sue giustificazioni, perché è chiaro che comunque la banca ha dei costi amministrativi, ma anche di gestione del personale, che sono sicuramente ridotti rispetto a un prodotto gestito in filiale. Mm-hmm. Tra l'altro alcuni ascoltatori ci segnalano anche la sempre più diffusa operatività sul nostro territorio di banche straniere che offrono la possibilità di aprire conti online a costo zero. Ce ne segnala uno, un ascoltatore peraltro lo conosciamo perché ha fatto anche grande pubblicità su tutti i giornali, insomma costi di apertura zero, canone zero, commissioni zero, e però non è che questo rapporto così idilliaco possa durare a lungo, prima o poi anche la banca che ti pratica delle condizioni così spudoratamente vantaggiose cambia idea. Mauro, tu che dici? Ma sì, io ho l'impressione, ma adesso stavo anche curiosando mentre parlavamo qui con Anna Vizzari sul comparatore di altro consumo che tra poco mettiamo anche dentro nel Twitter, cara Deborah. Lì dentro proprio, sì. Sì, con l'indirizzo per fare prima per trovarlo dal sito di altro consumo. E pensavo forse bisogna un pochino imparare a capire che ci serve dalla banca, cioè mi serve avere a disposizione, non so, un fido, rischio di andare in rosso per la mia attività e quindi ho necessità di questo, o invece mi interessano altre cose, che so, che sia un home banking, un utilizzo via internet molto facile, molto veloce, molto sicuro. Probabilmente bisogna cominciare a distinguere da banca a banca a seconda di che cosa ci offrono. Mi danno la carta di credito gratis oppure no, il bancomat, la ricaricabile, insomma tutti questi tipi di servizi. Cosa dice Vizzari? Assolutamente sì, questa è la prima cosa da consigliare ai clienti, cioè individuare in che modo si utilizzerà il conto corrente, perché magari possiamo anche trovare il conto corrente che ci offre operazioni limitate con un costo, ma in realtà magari quelle operazioni limitate non ci servono perché facciamo 10 operazioni per esempio al mese. Oppure non ci interessa avere i bonifici ricorrenti gratuiti perché non li facciamo mai. Quindi il primo consiglio da dare è quello soprattutto di verificare dalla documentazione che arriva peraltro alla banca a fine anno che tipo di operazioni abbiamo fatto. Quindi quello è un primo, diciamo così, capitolo sicuramente da consigliare. Guardate la documentazione, verificate come avete fatto, come avete utilizzato il conto corrente e con quel profilo di utilizzo fate le comparazioni. Certo. E ammettendo poi che si voglia cambiare banca, il punto è imbarcarsi in questa operazione che, nonostante le semplificazioni che sono arrivate negli ultimi anni, non è mai un'operazione, come dire, a costo zero dal punto di vista della praticità. Bisogna un pochino impegnarsi perché sai Deborah, c'è sempre molto traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Due di Denari. E allora, quanto ci costa essere infedeli alla banca? Quanto ci costa in termini forse di più di fatica, di qualche intoppo, perché ovviamente la banca non è mai lieta di perdere un correntista. Vizzari, che diritti abbiamo? Cioè, entriamo e diciamo me ne voglio andare, e cosa può accadere? Qualcuno saluta anche molto serenamente, non è che facciano proprio a pugni per trattenerci. Assolutamente, diciamo che appunto la prima cosa è verificare se ci sono delle offerte migliori, quindi sicuramente se andiamo in banca informati da questo punto di vista potremmo essere un po' più convincenti nei confronti del direttore o del consulente che abbiamo di fronte per farci cambiare le condizioni, però diciamo che non è un'impresa facile. Sicuramente è più facile cambiare banca, però a questo punto il consiglio che diamo è utilizzate la portabilità del conto corrente, quindi andate nella nuova banca e firmate lì un modulo di autorizzazione che vi permette di trasferire il rapporto alla banca all'altra, perché in questo modo avrete la certezza, o comunque dovreste avere la certezza, che il tutto si compia in 12 giorni lavorativi, e quindi se non si rispetta questa tempistica avreste anche diritto ad un indennizzo che pari a 40 euro fisso più una percentuale variabile che dipende dalla giacenza del conto corrente che si sta trasferendo, dai giorni di ritardo e dal tasso massimo ai fini dell'usura, che oggi è il 24%. Quindi utilizziamo questa norma, anche perché se non la utilizziamo, quindi se non firmiamo questo modulo di autorizzazione, la chiusura verrà nella modalità tradizionale, che prevede molto spesso dei tempi massimi molto più lunghi. Senta Vizzeri, molto spesso le persone cambiano rapporto con la banca, non dico tanto conto corrente, perché magari insoddisfatte di come questa, come intermediario, gestisce il risparmio della persona in questione. Allora uno dice: voglio cambiare e quindi porto via tutto. Se esiste anche un dossier titoli, un risparmio appunto amministrato gestito dalla banca, i 12 giorni valgono lo stesso? No. Quasi, ecco, infatti, spiega. Purtroppo no, perché in questo caso purtroppo siamo ancora in attesa di un decreto che dovrebbe definire dei tempi anche, quindi delle modalità di portabilità semplice anche per il conto titoli. Da quanto lo aspettiamo? Peraltro, da anni, ormai possiamo dire da anni, quindi in realtà purtroppo il correntista, che ha anche un conto titoli abbinato al conto corrente, deve utilizzare la procedura tradizionale, quindi con tempi molto più lunghi, appunto dei 12 giorni lavorativi che ho detto prima. È chiaro che questo è un problema, perché comunque ricordiamo che quando si ha un conto titoli non si può chiudere il conto corrente, cioè il conto corrente deve rimanere aperto, e quindi se trasferiamo il conto corrente dobbiamo anche trasferire il conto titoli nella nuova banca. Ed è un problema, ovviamente, perché non potendo utilizzare la nuova norma dobbiamo purtroppo sopportare dei tempi molto lunghi. È sicuramente una barriera all'uscita questa. Cioè noi praticamente, se abbiamo un dossier titoli, un conto titoli, prima dobbiamo intervenire su quello per spostarlo e poi possiamo chiedere l'applicazione dei 12 giorni, giusto? Esatto. Quindi in realtà però comunque dobbiamo subirci l'apertura in contemporanea di due rapporti di conto corrente. Sì. E poi possiamo applicare la portabilità. Dottoressa Vizzeri, no scusi, la interrompo perché gli ascoltatori ci chiedono: ma tutte le cose che ho attivato in automatico sul conto corrente, ad esempio la retribuzione, ma anche abbonamenti a qualsiasi cosa, dalla telefonia mobile mi viene in mente anche il Telepass, per così dire, anche se così sto facendo pubblicità, vabbè, non importa. Debora, diciamo che è il monopolista il Telepass, quindi è una pubblicità. Esatto. Così. È come quando ringrazio il Trenitalia, ringrazia per aver viaggiato con noi. Beh, esatto, mi pare che abbiamo tante altre alternative. Spesso non c'è alternativa. E con queste cattiverie, no, mi scusi, al di là di queste cattiverie e di queste pubblicità involontarie, la domanda è: ma questo tipo di addebiti e accrediti automatici può ritardare, può far aumentare questi 12 giorni? Dobbiamo fare qualcosa in particolare per... Sì, allora, nel senso che la legge prevede che quando si va nella nuova banca a firmare il modulo, si allega anche, ricevuta dalla banca iniziale, un elenco di tutti gli addebiti diretti che abbiamo sul nostro conto corrente, e sarà la nuova banca a pensare al trasferimento, quindi a comunicare alle varie società di utenza e magari anche all'emittente della carta di credito qual è appunto il nuovo numero di conto corrente su cui effettuare gli addebiti. Quindi ci pensa la nuova banca, e tutto deve avvenire nei 12 giorni lavorativi, incluso anche l'eventuale trasferimento della giacenza, quindi la chiusura del conto corrente. Un altro ascoltatore solleva un altro grosso problema, che però non riusciamo ad affrontare qua, anche perché non ha soluzione, è irrisolto da sempre, è il tema del avere nel conto titoli della persona che magari si vuole spostare titoli di società fallite che sono lì, incagliano questo rapporto, e le banche non hanno ancora trovato una soluzione a queste vicende. Lo sappiamo, purtroppo non abbiamo informazioni da darvi, perché non ce ne sono, non le ha neanche il sistema bancario, che si tiene la vita natural durante questi rapporti morti di molte persone che devono loro malgrado tenere appunto aperti questi conti. Assolutamente sì, forse in questo caso ci sarebbe anche bisogno di un intervento legislativo. Infatti, che risolva il problema, ecco, che finora però è mancato. Quindi. Allora, in realtà avevamo preannunciato anche di raccontare come funziona il conto di base, visto che abbiamo anche fresche queste rinnovate istruzioni dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Sì, sono state diffuse tra l'altro con un comunicato del 15 di febbraio, cioè di sabato, hanno ricordato. Sto weekend è successo di tutto. Eh sì, circolari. Ah, a proposito, qualche ascoltatore dice: potete ridarmi il numero da circolare sul bonus facciate? Sì, è il numero 2, la 2E, la circolare 2E. E c'è anche una guida dell'Agenzia delle Entrate, la trovate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it. L'ABI invece, da parte sua, ha diffuso un riepilogo del conto di base, ma forse è più utile se lo chiediamo alla dottoressa Vizzari. Il conto di base è per pochi, non per tutti, tanto per cominciare a chiarire la cosa. È a zero spese, però non, solo pochi sì. possono arrivarci. Allora, quello a zero spese sì, in realtà sì, è riservato alle cosiddette categorie svantaggiate, quindi sostanzialmente sono i correntisti che riescono a certificare un ISEE non superiore a 11.600 euro. E quindi in questo caso hanno accesso sostanzialmente a un conto semplificato, che quindi non prevede gli scoperti, non ha gli affidamenti, non ha gli assegni, ma prevede un certo numero di operazioni di pagamento, per esempio i bonifici oppure li prelievo agli sportelli automatici, una carta di debito abbinata all'home banking, con appunto a costo zero e senza imposta di bollo, quindi totalmente gratuito come rapporto. Esiste poi un conto base ancora più semplificato, con un numero ancora ridotto più ridotto di operazioni, per i pensionati che hanno un assegno che non supera i 18.000 euro all'anno. Anche in questo caso non pagano nulla, ma è prevista un'imposta di bollo nel caso in cui la giacenza del conto supera i 5.000 euro. Poi esiste comunque la possibilità di avere accesso al conto base per tutti, indipendentemente da quello che ho detto prima, pagando un canone onnicomprensivo di tutte le operazioni. Questo canone, secondo la legge, dovrebbe essere limitato, perché appunto è un prodotto di inclusione finanziaria, quindi dovrebbe avere un costo basso, ma in realtà quello che vediamo ancora adesso è che si tratta spesso di costi abbastanza elevati. C'è anche qualche banca che arriva a far pagare 72 euro per il conto base. Ah beh. Esatto, e quindi in realtà diciamo che è un po' lo spirito della legge è un po' vanificato in questo caso. Però appunto il conto base in realtà è per tutti coloro che non hanno un altro conto di pagamento. Però io sapevo, ma forse non sono aggiornato, che non erano ad esempio incluse le operazioni di home banking, cioè se uno doveva fare operazioni home banking, no, in realtà l'home banking è previsto assolutamente all'interno anche del testo unico bancario come servizio che viene a essere abbinato al conto base. Sono contento di essermi sbagliato. Bene. Anna Vizzari, chiudiamo fra 30 secondi. Un'ultima raccomandazione per i nostri correntisti all'ascolto, ancora un po' scontenti del rapporto con la banca? Allora, quello che consiglio sempre è di verificare le comunicazioni che arrivano dalla banca e nel caso appunto cambiare, perché sul mercato ci sono ancora dei prodotti che potrebbero essere più adatti per il correntista e possono ancora far risparmiare qualche soldino. Però insomma bisogna avere proprio la pazienza di aprire quell'estratto conto che spesso arriva, lo teniamo richiuso in busta nel mobiletto accanto alla porta d'ingresso e lì lo lasciamo decantare per mesi e mesi. Grazie ad Anna Vizzari per essere stata con noi, buona giornata. Domani parliamo di un tema bello: opzione donna per andare in pensione, ma un po' anche di bonus bebè. Molto bene, per Kate Mitchell.